Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon Santo Stefano da Giulia Crivelli. Oggi non ci sono i giornali italiani, però abbiamo comunque la nostra rassegna stampa settimanale con cui guardiamo un po' alla settimana che è passata, alle questioni europee. E torniamo per iniziare alla questione delle elezioni in Francia. C'è un articolo apparso su Open Democracy del Regno Unito che riprende un po' il risultato francese. Sappiamo che dopo un primo turno con un risultato eccezionale, il Front National al secondo turno, per via delle alleanze che si sono formate, diciamo così, alle sue spalle tra rivali storici di centrodestra e di centrosinistra, non è poi riuscito ad aggiudicarsi nessuna di quelle regioni in cui aveva vinto al primo turno. Ma secondo Open Democracy questa sconfitta vittoriosa, così viene definita, non deve tranquillizzare i socialisti e la destra gollista e in generale tutta l'Unione Europea, perché quello che è successo in Francia è in realtà il sintomo di un malessere che in altri paesi magari si esprime con il successo di altri partiti. Abbiamo visto in Spagna il successo di Podemos e di Ciudadanos, ma che comunque esiste nella società perché c'è voglia di nuovo. Oddio, qualcuno potrebbe dire che Marine Le Pen e il Front National non sono esattamente il nuovo, però sicuramente rispetto alla vecchiume che esprimono, potremmo dire così, i partiti tradizionali, le sue proposte sono sicuramente in qualche modo nuove. E allora scrive ancora Open Democracy: i francesi vogliono proteggere i loro confini dai profughi che arrivano soprattutto da paesi musulmani, esattamente come succede nel Regno Unito. E in questa situazione è interessante notare come le conseguenze della chiusura dei confini britannici potrebbero avere sulla Francia. Torniamo invece, abbiamo parlato delle elezioni spagnole che sono ancora più recenti di quelle francesi. Qui molti giornali spagnoli hanno fatto dei paragoni con il nostro, con la situazione che abbiamo visto tante volte in Italia, cioè che dopo le elezioni non ci sia un vincitore chiaro, perché anche la Spagna non è più in un regime di bipartitismo, ma appunto, come abbiamo detto, ci sono questi due nuovi soggetti, Podemos e Ciudadanos, che da movimenti, diciamo, collaterali sono diventati veri e propri partiti e quindi hanno avuto molti consensi alle ultime, non solo alle precedenti amministrative, ma questo che era il banco di prova alle politiche. Quindi il primo partito è risultato il partito di governo di centrosinistra, ma non riuscirà a formare un governo da solo. E allora il titolo un po' di questo riassunto che Vox Europe fa di quello che è successo, citando parecchi giornali spagnoli, è: nulla sarà come prima. Le elezioni del 20 dicembre hanno segnato la fine del bipartitismo che ha caratterizzato la politica spagnola dal 1978. Per la stampa spagnola si tratta della fine di un'epoca e l'inizio di una fase di incertezza politica intorno alle possibili coalizioni di governo. Il Partito Popolare del premier uscente Mariano Rajoy è giunto in testa, seguito dal Partito Socialista e dalle due formazioni emergenti, Podemos a sinistra e Ciudadanos al centro. Per El País la legislatura sarà centrata su un Parlamento di minoranza nel quale nessun partito avrà la forza sufficiente per agire da solo, poiché tutti sono lontani dalla maggioranza assoluta. Il nuovo sistema uscito dalle urne non è una rivoluzione, ma un cambio importante. Invece ABC, che è un altro quotidiano spagnolo meno diffuso di El País, ma comunque uno fa parte del panorama dei quotidiani spagnoli, l'editorialista Luis Ventoso spiega che il sistema politico spagnolo ha perso la stabilità delle ampie maggioranze che era diventata il suo motto dal 1978 ed entra in un preoccupante processo, udite udite, di italianizzazione, i cui vantaggi pratici non sono ancora evidenti a un primo sguardo, fatta eccezione per la logica euforia dei nascenti Podemos e Ciudadanos. Vi segnalo anche El Mundo, che è un quotidiano rispetto a El País un po' più spostato verso il centrodestra, che appunto titola: nulla sarà più come prima, e queste elezioni, secondo El Mundo, hanno provocato la liquidazione del bipartitismo e l'irruzione di forze emergenti. La mappa politica spagnola cambierà totalmente. Vedete che non sono poi così originali i commenti, d'altro canto i primi dati erano questi, adesso appunto si aspetta tutto quello che verrà. Forse qualcuno di noi ricorda, i non più giovanissimi, appunto le faticosissime negoziazioni che c'erano in Italia quando non c'era di fatto un bipartitismo, ma c'erano i tanti partiti. Vi ricorderete sicuramente il famoso pentapartito, le varie coalizioni dove piccoli partiti riuscivano a ricattarne anche di grandi, con appunto la forza di dire: o con noi oppure un governo non si può fare. Ultima giornale che vi cito, L'Avanguardia: gli spagnoli hanno deciso ieri di attuare un profondo cambiamento politico che comporta la fine delle maggioranze assolute e del bipartitismo che hanno caratterizzato 37 anni di applicazione della Costituzione spagnola. Secondo L'Avanguardia, i risultati delle 12esime elezioni legislative da quando è stata instaurata la democrazia dicono chiaramente che i cittadini vogliono costringere 4 gruppi politici, ripartiamo ancora, Partito Popolare, Partito Socialista, Podemos e Ciudadanos, a negoziare degli accordi per formare un governo stabile e per mettere in atto le riforme politiche previste con forme diverse, ma esplicite, nei diversi programmi elettorali. Vi segnalo, per cambiare argomento, un altro articolo che trovate su voxeurope.eu, il sito che cito sempre, che fa questo lavoro di monitoraggio e di traduzione anche di articoli che appaiono su giornali stranieri, e quindi, ma per stranieri intendo anche di paesi dove la barriera linguistica ci rende un po' più difficile, appunto, accedere alle forme di informazioni locali. Il titolo è: tra la Slovenia e la Croazia un filo spinato di troppo. Dopo l'Ungheria, la Bulgaria, la Serbia, la Croazia, la Macedonia e presto l'Austria, anche la Slovenia costruisce una barriera di confine, lungo il confine, con il compito di impedire l'entrata dei migranti. Una misura approvata dagli sloveni ma criticata dalla stampa su entrambi i lati della frontiera. Il governo di Milo Cerar ha deciso di erigere una barriera di filo spinato lungo 550 chilometri dei 671 totali di frontiera con la Croazia, in previsione dell'ondata di migranti attesa in primavera. Una decisione che ha provocato le proteste di Zagabria, che accusa Lubiana di approfittare dell'occasione per tracciare una linea di demarcazione tra i due paesi, la cui frontiera, pensate, è tuttora oggetto di arbitrato internazionale. Anche in Slovenia la costruzione del filo spinato ha suscitato proteste, in particolare quando le forze dell'ordine hanno cominciato a sistemarlo sulla costa, nella regione turistica dell'Istria e sulle rive del fiume Kupa, il confine naturale tra Slovenia e Croazia. Per esempio a Zagabria, vi cito appunto un quotidiano, il quotidiano Večernji List se la prende con l'atteggiamento dei partner europei nei confronti dei paesi dell'Unione. Bruxelles e Angela Merkel non hanno mostrato alcuna comprensione verso l'Ungheria quando ha cominciato a erigere un muro di filo spinato. Invece, quando la Slovenia ne costruisce uno, Merkel non dice nulla. Qual è la differenza? Oppure il quotidiano Dele, che ritiene che i chilometri di filo spinato che spuntano lungo la frontiera sloveno-croata, e in particolare nella valle della Dragonia e della Carniola Bianca, rappresentino un corpo estraneo in mezzo alla natura. Nonostante ciò, è diventata una nuova realtà. La popolazione ci si è abituata, malgrado l'assenza di dibattito democratico, le restrizioni alla libertà, la disumanizzazione dei rifugiati, il deterioramento dei rapporti con la Croazia e la radicalizzazione della società. E questo appunto è sempre tristissimo quando viene costruito un nuovo muro, e però questa è appunto la situazione di cui in Italia si parla pochissimo tra Slovenia e Croazia. Passiamo ai giornali tedeschi, alla Süddeutsche Zeitung, che ha due notizie riguardanti il mondo dell'auto. La prima riguarda la Formula 1 e Ferrari in particolare, perché secondo la Süddeutsche Zeitung Stefano Domenicali, che è l'attuale vicepresidente di Audi, gruppo Volkswagen, e numero uno del team di Formula 1 Ferrari fino allo scorso anno, è il candidato favorito per la poltrona di nuovo amministratore delegato di Lamborghini, che è una casa editrice storica italiana ma controllata a sua volta da Volkswagen. Si parla da tanto tempo infatti delle dimissioni dell'attuale amministratore delegato della Volkswagen, Winkelmann, potrebbero arrivare all'inizio del 2016, e ci sono naturalmente molti candidati. Secondo questo quotidiano tedesco, uno è appunto Stefano Domenicali. Sempre la Süddeutsche Zeitung si occupa in questo caso proprio della questione Volkswagen, e secondo il giornale i tempi saranno molto lunghi per l'inchiesta. Il procuratore Klaus Zie del distretto di Braunschweig, che si occupa di questa inchiesta, ha definito che la mole di documenti e l'ampiezza temporale su cui si sarebbe consumata la frode, cioè 10 anni, è enorme per gli inquirenti, e con 5 inquirenti un 12esimo del personale a disposizione la procura è già impegnato a tempo pieno solo sul caso Volkswagen. E così a essi si sono aggiunti 20 nuovi investigatori arrivati dal Land della Bassa Sassonia, ma anche così potrebbero non bastare per avere tempi brevi. Naturalmente per noi italiani la definizione di tempo breve di un'inchiesta è molto diversa da quella che danno i tedeschi. Finiamo con una segnalazione dal Börsen-Zeitung, un quotidiano finanziario tedesco, secondo il quale l'EBA, che è l'autorità competente per la supervisione bancaria nei 28 paesi dell'Unione Europea, ha litigato con la BCE, la Banca Centrale Europea, che vigila sugli istituti dell'area euro. Secondo la stampa tedesca, infatti, che ha spiegato che le autorità londinesi hanno chiesto la pubblicazione delle richieste individuali di capitale da parte della BCE, emergono parecchi punti non chiarissimi. Da parte della BCE, scrive Börsen-Zeitung, non ci sono commenti. La BCE ha condotto i test, li ricorderete, i famosi test SREP per capire la solidità delle banche, per le 120 banche più importanti dell'area dell'euro l'anno scorso e da ultimo nelle scorse settimane, ma non richiede agli istituti di diffondere le richieste individuali di capitale e i risultati finali, preferendo un dialogo efficiente e franco con le banche, così viene citata lo stesso EBA, alla pubblicità. Insomma, anche in questo caso vediamo che, certo, quello che sta succedendo in Italia è gravissimo e sappiamo che ci sarà anche un'inchiesta, però forse i comportamenti delle banche, la trasparenza delle banche sono un problema non solo in Italia ma in tutta l'Unione Europea e persino appunto in Germania. Era l'ultima segnalazione di oggi, ancora un buon sabato, un buon Santo Stefano da Giulia Crivelli, ci sentiamo domani con i giornali italiani. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.